Reunion. Un romanzo di Dario Vergario. Capitolo 15. Home, sweet home. Era sera quando Mirko finalmente arrivò in città. Nonostante fossero passati pochi giorni da quando se ne erano andati, la vista del cartello dell'autostrada che indicava l'arrivo a destinazione gli diede la sensazione di tornare a casa dopo molti anni. Percorse lentamente la strada che portava in centro e costeggiava i grandi serbatoi di carburante che al tramonto riflettevano metallici bagliori color sangue di piccione. Il traffico era scarso, i bravi cittadini erano in maggioranza a tavola per la cena. Mirko aveva sempre amato guidare senza meta, godendosi i ricordi evocati da ogni angolo della sua città. Quella sera però aveva fretta di riprendere contatto con il passato. Spinse dolcemente l'acceleratore, gustandosi la sensazione di viaggiare su un razzo che quella macchina incredibile era capace di dare. In pochi minuti fu sotto casa di Diossido. Uscì dall'automobile inspirando a pieni polmoni l'aria carica di mare e ricordi. Guardò in su, scorse filtrare dalle tapparelle della camera dell'amico la familiare luce al neon. Era la prima volta che non sentiva musica uscire dalla finestra e per un istante ebbe il dubbio di avere sbagliato casa. Suonò al citofono e la serratura scattò senza che nessuno chiedesse informazioni, altra cosa inconsueta per il prudente Diossido. Mirko salì di corsa le scale fino al primo piano. Non vedeva l'ora di ritrovarsi in compagnia del vecchio amico e compagno di avventure. La porta sul pianerottolo era accostata, entrò senza esitazioni, ma prima di poter fare un altro passo nell'appartamento, un braccio gli afferrò la testa da dietro e qualcosa di freddo e lucente gli disegnò una sottile riga sulla gola. «Il tuo socio ti ha mandato per finire il lavoro? Ti sei pentito di avermi risparmiato?» La voce di Diossido che gli sibilava nell'orecchio era roca e tesa come mai l'aveva sentita prima. Mirko alzò le mani tentando di parlare senza che la carotide premesse troppo sul gelido metallo. «Diossido, che fai? Sei impazzito?» disse in un fiato ma senza tentare di divincolarsi. «Sono io, che ti prende?» «Ho visto, sai, ho visto come avete ridotto la gente. Cos'è? Mancavo solo io per la vostra collezione?» «Cazzo, Diossido, ma se ti ho dato io l'antidevil, ma che ti è successo?» La stretta sembrò allentarsi un poco e gli parve di sentire dei singhiozzi trattenuti che scuotevano il corpo dell'amico. «Diossido, sono tornato perché mi mancate, perché mi prendi. Volevo rivedervi.» «Ah sì? E sei sicuro che quello che vedrai ti piacerà?» «Io non sono sicuro di niente, non mi stupisco più di niente ormai. Quello di cui ho bisogno è parlare con qualcuno di normale, ecco perché sono qui.» Il silenzio che seguì iniziò a spaventarlo davvero. Poi a poco la presa diminuì mentre la voce di Diossido in un sussurro diceva: «Non so neanch'io se sono ancora normale. Tu lo saresti? Lo sei ancora?» La stretta al collo cessò. Diossido si allontanò di un passo e lasciò cadere il coltello a terra. «Scusa», disse coprendosi il viso con le mani, «avevo paura che tu fossi diventato come lui.» Mirko non replicò, passò un braccio intorno alle spalle dell'amico e lo accompagnò fuori, verso l'automobile. «Avanti, caro, avanti», disse Drago in piedi in mezzo alla stanza. L'antica porta della stanza della segnatura si aprì lentamente. Una scarpetta rossa fece capolino dalla fessura, posandosi sulle mattonelle del mosaico, seguita da una sottana bianca. «Ti aspettavo, vieni che abbiamo parecchio da parlare noi due.» Il viso ansioso del pontefice si guardò intorno. Assomigliava a quello di uno scolaro impreparato chiamato dal maestro per essere interrogato. Entrò nella stanza a capochino, senza dire una parola. Drago gli indicò una delle poltrone Luigi XV che lui e Mirko avevano fatto portare lì. Spero che tu abbia già cenato. Siediti, dai, stai tranquillo. Il pontefice non osava alzare gli occhi sul dio, ma obbedì rasserenato. Ascolta ora, il compito che sto per assegnarti è cruciale per la riuscita della nuova creazione. La creazione continua, sai, non si è mica fermata come qualcuno di voi pretenderebbe. Comunque mi serve un coordinatore, qualcuno con capacità nel trattare con persone di varia provenienza, qualcuno a cui delegare le incombenze più noiose e che sia in grado di portarle a termine nel modo più preciso. Fece una pausa osservando attentamente il pontefice per poi riprendere in tono più deciso. Questa mattina ho dato alcune istruzioni ai cosiddetti capi di Stato. Hai assistito alla trasmissione, vero? Sì, mio signore, replicò timidamente il pontefice. Bene, quindi non ho bisogno di ripeterti tutto, sai già qual è il mio volere. Ora, da te, voglio che tu segua l'evolversi di questa fase attraverso la copertura globale che ti danno i tuoi sacerdoti. Voglio ricevere da te settimanalmente un rapporto e dovrai riferirmi di ogni eventuale inconveniente che si dovesse verificare. L'uomo è fallace e io voglio essere sicuro che le cose vadano come desidero, non come quella volta con i 10 comandamenti. Ci siamo capiti? Il pontefice aveva il cervello in fiamme. Cercava disperatamente di non mostrare emozioni e restare impassibile, ma si sentiva come immaginava si dovesse essere sentito Mosè davanti al roveto ardente. Ogni sua cellula gli gridava di essere al cospetto di Dio, ma la sua mente continuava a porsi domande. Perché l'Onnipotente chiedeva aiuto a lui, umile pastore di anime? Perché l'Onnisciente aveva bisogno delle sue informazioni? Avrebbe voluto domandarlo al Dio, anche se allo stesso tempo aveva paura di conoscere la risposta. Mise a tacere i suoi dubbi ricordando a se stesso che le vie del Signore sono infinite ed esortandosi a non peccare di superbia. Sarà fatta la tua volontà, mio Signore. Come sempre, vecchio mio, ribatté Drago. Come sempre, ma vedi di farla bene, la mia volontà. Gli mostrò la porta con un gesto della mano e non ci fu bisogno di aggiungere altro. Mirko fece salire Diossido in macchina e lo guardò meglio in viso alla luce dei lampioni. In quei pochi giorni la tensione lo aveva sciupato e smagrito. Lo sguardo affilato e spaurito era quello di un animale braccato. I suoi occhi balzavano da una parte all'altra cercando di osservare tutto contemporaneamente. Mirko sperò di non essere arrivato troppo tardi, si sentiva in colpa verso l'amico. «Va tutto bene, hai solo bisogno di rilassarti un po'. Dai, ci facciamo un giro in macchina». Salì a sua volta in auto e si diresse verso il mare. Fu un bisogno istintivo dopo i giorni di lontananza. Sperava che la vista delle onde ed il rumore della risacca avrebbero fatto bene anche a Camillo. La città non sembrava affatto cambiata, tuttavia dentro di sé Riviera sentiva che le cose non sarebbero mai tornate come prima, e non solo perché lui e il mondo erano mutati, ma soprattutto perché i suoi vecchi amici erano rimasti fuori dalle trasformazioni che si erano prodotte in lui. Cercò qualcosa per riannodare il rapporto con Diossido, un'affinità che non fosse andata perduta. Puoi anche sputare sul cruscotto se vuoi. Camillo lo guardò come se lo vedesse per la prima volta. Poi disse: ma tu, come hai fatto a non perdere la testa? Mirko sorrise sollevato. Per perdere qualcosa prima bisogna averla, non ti pare? Fanculo, sei sempre il solito cazzone. E io che mi ero fatto delle paranoie assurde. Tu pensi troppo, lo sai. Diossido annuì, poi disse: se per caso volevi andare alla Resi, ti avverto che è inutile, non c'è più nessuno lì. Riviera ebbe un brivido. Cosa vuoi dire? Perché non c'è più nessuno? Perché? A che scopo? Ma come? Non ricordi che stavamo lì per sfuggire alla merda che ci buttavano in faccia tutti i giorni? Stavamo tra noi per non sentirci soli tra gli zombie, ma ora non c'è più nessuna differenza tra la Resi e la città. Questo grazie al nuovo ordine mondiale di quel bastardo del tuo socio, che non ha esitato un attimo a friggere il cervello ai suoi pari pur di raggiungere i suoi scopi. La Resi non esiste più, perché non c'è più bisogno di difendersi dagli zombie decerebrati, visto che oramai lo sono diventati tutti. Mirko non lo aveva previsto. Questo gli faceva più male del coltello puntato alla gola di poco prima. Sterzò bruscamente e accelerò verso il cavalcavia che portava alla stazione e alla Resi. Non fiatò per tutto il percorso. Inchiodò la macchina proprio davanti al muretto dove erano soliti sedersi e passare le ore, e che, a sua memoria, non era mai stato così vuoto e solitario come in quel momento. Scese dalla Mercedes. Fece il giro del muretto scendendo di corsa gli ampi gradini che portavano alla parte inferiore, quella piazzetta nascosta tra le sagome di ferro appuntito dove si riunivano lontano dalla vista dei normali quando facevano baldoria, quando il nero e gli sballoni si fumavano tutto il fumabile e i punk vomitavano pozze di birra a ogni angolo, mentre lui e Diossido e Drago osservavano e disquisivano sul significato della vita. Anche lì il deserto. Persino le bottiglie vuote di birra adagiate sul cemento erano polverosi resti di un'altra era. Le ombre scure delle sagome metalliche proiettate dalle luci notturne al sodio sul pavimento della piazza erano tutto quello che restava della vita che fino a pochi giorni prima aveva animato il loro santuario. Mirko non intendeva rassegnarsi. «Le anne! Acqua di cane! Dove sono tutti?» esclamò rivolto a Diossido che alzò le spalle e sospirò scuotendo il capo. «L'ultima volta che li ho visti stavano salendo sulla collina quando tu e il pazzo giocavate a fare Dio. Allora dobbiamo trovarli, non possono essere svaniti nel nulla». «No, è il nulla che li ha presi, così come si è preso tutti gli altri». Mirko avrebbe voluto dire qualcosa per difendere Drago, ma non voleva spezzare l'esile filo che lo aveva riavvicinato a Diossido. «Cominciamo con le anne, ti va? Sono sempre state le più equilibrate tra noi, poi penseremo agli altri». «Non so se servirà». Diossido esitava. «Del resto hai ragione, non possiamo abbandonarli tutti così. Vabbè, proviamo qui vicino, dalla nera». Lasciarono la macchina e si avviarono a piedi verso il centro storico della città. Il rumore dei loro passi era l'unico suono che rimbombava tra le antiche strade. Mirko desiderava potesse scacciare tutti i brutti presentimenti che gli gonfiavano il petto, sebbene a ogni passo i presagi diventassero più scuri. Drago aveva bisogno di muoversi e pensare dopo il colloquio con il pontefice. Era salito a piedi fino alla sommità della cupola di San Pietro. Le pareti sbilenche della salita circolare e il gran numero di scalini gli avevano fatto girare la testa, ma la vista di Roma dal vertice della cupola gli schiarì la mente in un istante. La città brillava sotto le stelle della notte come una distesa di diamanti su un cuscino di velluto nero. I suoi occhi faticavano a contenere tutte le luci in cielo e in terra, così come il suo cervello faticava a contenere tutti i pensieri che gli affollavano la mente. Non si era mai sentito così solo in tutta la sua vita. Un senso di solitudine universale gli serrava il cuore in una morsa gelida. Non era l'assenza di Mirko che lo faceva soffrire. La sua presenza non avrebbe cambiato minimamente le cose. Ora che il suo piano si stava realizzando, ne sentì sulle spalle tutto il terribile peso. Chi sarebbe diventato? Colui che le generazioni a venire avrebbero ricordato come salvatore del genere umano? O quello che avrebbe posto la definitiva pietra tombale su quell'infimo, effimero schizzo di vita nelle tenebre dell'universo? Non c'era altra alternativa per lui. Sapeva di essere venuto al mondo per operare la scelta decisiva e sapeva che avrebbe dovuto farlo da solo. Aveva fatto il possibile per cambiare in meglio la situazione mondiale. Non erano stati forse i confini e le divisioni fra le nazioni, i pretesti per le innumerevoli guerre che si erano puntualmente ripetute nel corso dei secoli. Ora il solo confine che ancora esisteva era quello dell'esosfera che separava la Terra dal cosmo. L'enorme disparità di averi era un'altra molla che aveva scatenato rivoluzioni, persecuzioni, stermini e sofferenze infinite. L'ingordigia che creava ulteriore ingordigia era stata resa vana. E fanculo, Mirko, si trattava di semplice buonsenso. Le religioni, i loro ricatti, le minacce di inferni o paradisi, la mancanza di bellezza che elevasse lo spirito umano, la felicità equivocata e scambiata con l'accumulo di beni materiali, erano tutte cose che avevano oppresso e abbruttito l'umanità e alle quali lui si era stancato di sottostare. Davvero avrebbe fatto saltare tutto in aria se il suo piano non avesse dato i risultati voluti? Drago annuì fra sé. Lo avrebbe fatto, senza alcun dubbio e con gioia. Dopo queste considerazioni si sentì più sereno. L'oppressione che pesava sul suo animo scivolò via come la notte alle prime luci rosate dell'alba. Roma dormiva ai suoi piedi. Scese rapidamente fino alla basilica. Attraversati i giardini vaticani, arrivò al piccolo eliporto. Diede ordine al pilota di portarlo a Fiumicino. Da lì avrebbe preso l'Hawker e sbrigato un paio di affarucci prima di iniziare la sua piccola vacanza, in attesa delle relazioni del pontefice. Poi avrebbe lasciato che il tempo lavorasse per lui e che le cose seguissero il loro corso.